versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 16 di gennaio, 16.34 primi 41 secondi, siamo in diretta qui dagli studi di Radio 24 di Milano, e già da adesso, ma ve lo ricorderò anche alla fine, vi do anche appuntamento per domani alle 2 ore di diretta con i Conti della Belva, con me Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminerio, Renato Cifarelli, dalle 10 alle 12 domani mattina. Vengo subito alla questione, perché la trasmissione nasce in realtà per sentire le vostre opinioni oggi, infatti non c'è neanche l'ospite, sperando che chiamiate in tanti, 800 24 00 24, su due questioni delle ultime 24 ore. La prima è la dichiarazione del Papa, Papa Francesco, che lasciando molti stupiti, e tornando dal suo viaggio in Sri Lanka, ha detto... Sì, insomma, se qualcuno offende mia madre, io gli do un pugno. Si stava parlando ovviamente della coda, della tragedia parigina, della strage a Charlie Hebdo. L'argomento era porre dei limiti alla libertà di satira e di stampa, ne abbiamo parlato più volte in questi giorni. E insomma, il Papa ha fatto chiaramente intendere che dei limiti ci devono essere, non solo nella testa e nella mano del disegnatore, ma che altrimenti poi le reazioni arrivano. E a me la reazione del Papa ha colpito molto, perché io non sono d'accordo, nel senso che esiste un diritto all'autodifesa quando si è minacciati nella propria vita e così via, ma siccome lui ha parlato di offese, io credo che se uno mi offende io devo tenere i pugni in un solo posto, cioè in tasca. Non posso reagire con la violenza a qualcuno che mi offende. Questa è la mia opinione, però, perché da ieri, con molti ascoltatori e con molti a cui rispondo nelle mail, ho ricevuto un mucchio di lettere che mi dicono al contrario: no, viva il Papa che dice le cose come stanno. E quindi sono curioso, prima domanda, di capire come la pensate rispetto alle parole del Papa, che dice: se qualcuno offende mia madre, e per lui sua madre in quel caso era non solo la sua madre naturale, era ovviamente la religione cattolica, si aspetti un pugno. Ricordate che qualcun altro 2000 anni fa disse di porgere l'altra guancia, ma io non voglio fare polemiche facili, mi interessa capire come la pensate voi, non sta a me giudicare che cosa dice il Papa, io posso semplicemente dire non sono d'accordo, perché secondo me un'offesa non ha come risposta proporzionata la violenza e tantomeno quindi una vignetta. Ecco, questa prima questione. La seconda questione invece è quella collegata al rientro in Italia delle due cooperanti, le giovanissime Greta Ramelli e Vanessa Marzullo. In questo caso, naturalmente tutti felici per il loro ritorno, sono sane e salve. La questione però, da cui non abbiamo avuto chiarezza alle 13 nell'intervento al Parlamento del Ministro Gentiloni, è quella sul riscatto pagato. Ministro Gentiloni non lo ha smentito, ha parlato solo di illazioni, e però ha detto con un tono molto asseverativo e di orgoglio che l'Italia, come si vede, non abbandona i propri cittadini quando sono sequestrati all'estero, il che fa capire che la prima risposta di Gentiloni, quella di non entrare nel merito sul riscatto, si è parlato di 12 milioni di dollari ai sequestratori fondamentalisti, non entrare nel merito significa una ragione di Stato per non ammettere il fatto, perché poi la dichiarazione successiva, quella dell'orgoglio nel dire che noi non abbandoniamo i nostri cittadini all'estero, in realtà non fa altro che confermarlo. Quindi lo Stato italiano, a differenza di altri, per esempio gli Stati Uniti, paga i riscatti, la Gran Bretagna paga i riscatti. Allora la questione non è solo quella di chiedervi pensate che sia giusto farlo, ma è anche un'altra, perché a me colpisce molto la simmetria delle norme italiane. Io vi ricordo che da molti anni, dopo che negli anni 70 era esplosa nel nostro paese la piaga dei sequestri di persona a fini di estorsione, ecco, poi negli anni 90, inizio degli anni 90, nel nostro ordinamento si introdusse una novità che da allora è vigente e da allora ha fatto diminuire in maniera totale, drastica, i sequestri di persona. Di che cosa si tratta? Di una norma che consente a chi conduce le indagini nelle procure di operare l'immediato sequestro dei conti dei familiari dei rapiti. Perché? Per impedire che venga pagato il riscatto. Allora, al di là del successo che questa misura ha avuto nell'abbattere i riscatti a fine di estorsione che si moltiplicavano nel nostro paese, erano diventati una maniera di finanziarsi della 'ndrangheta, dell'anonima sequestri sarda all'inizio e così via, la questione che mi colpisce è la simmetria. Perché viviamo in un paese nel quale, se avviene un sequestro di vite, cittadini italiani, nel nostro paese, la legge italiana dice che non si paga il sequestro e anzi si impedisce alla famiglia anche la sola possibilità di provarci aggirando il controllo della magistratura, perché gli si sequestrano i conti. E dall'altra parte lo stesso paese invece che con orgoglio, di fronte a vite sempre di italiani e di italiane, come nel caso di Greta e Vanessa, io sono il primo a felicitarmi perché sono sane e salve, ma perché lo stesso Stato che dice no, voi non potete pagare in Italia se qualcuno vi sequestra, impedisce ai familiari, che naturalmente sarebbero pronti a farlo se hanno i soldi, pur di salvare i propri parenti salvati, all'estero invece decide lui di fare esattamente all'opposto. Non è una contraddizione terribile ai vostri occhi? Ai miei occhi lo è. Lo è anche perché poi le reti jihadiste fondamentaliste, se proprio dobbiamo essere oggettivi, sono enormemente più pericolose dei pur pericolosissimi malavitosi italiani che facevano e magari continuano a quel punto a pensarci adesso di nuovo di fare sequestri di persona. Allora, su queste due questioni ditemi come la pensate. Ci sono già delle telefonate. Prima di queste telefonate io voglio solo leggervi, sullo stesso argomento in cui è intervenuto il Papa dicendo se offendono mia madre è un pugno, le parole pubblicate da, in un'intervista alle Figaro, che mi ha colpito molto, del gran rabbino di Francia, che si chiama Haim Korsia. Il gran rabbino di Francia si esprime sugli stessi temi che hanno fatto dire al Papa la cosa del pugno e parla in questi termini. Dire quando si parla di libertà di stampa, dice il gran rabbino di Francia, se si inizia a dire libertà di stampa ma puntini, quel ma puntini è colpevole. Non ci sono ma, dice il gran rabbino di Francia. Libertà di espressione e libertà di stampa sono due fondamenti della nostra democrazia e libertà. A questo punto il giornalista gli chiede, sì, però anche se questa libertà di stampa, di espressione, di vignetta evoca, descrive o raffigura ciò che è blasfemo per gli ebrei? Cioè, gli fanno la stessa domanda che hanno fatto al Papa. E così risponde il gran rabbino di Francia. Esiste certamente la nozione di blasfemia per il credente, ma noi come ebrei non possiamo proiettare il nostro divieto sugli altri. Se qualcosa è blasfemo per me, dice il gran rabbino di Francia, devo limitarmi io a non guardarlo, non pretendere che altri non lo facciano, lo raffigurino o lo citino, e tantomeno giustificare qualunque reazione alla decisione di chi a quel punto scrive cose blasfeme per noi ebrei. Allora, io trovo che queste parole ai miei occhi, modestissimamente, sono enormemente preferibili a quelle del Papa. Ma sentiamo come la pensate voi. Cominciamo con Gino da Vicenza. Prego, Gino. Buonasera, Giannino. Buonasera. Buonasera. Per quanto riguarda il Papa, io sono d'accordo, ma io penso che lui abbia detto il pugno metaforicamente, non che volesse dire il pugno violento. Secondo me voleva dire qualcos'altro, non il pugno fine a se stesso di colpire l'avversario. Secondo me il Papa voleva dire qualcos'altro, secondo me. Però lei capisce che il Papa, che, ripeto, sta a me giudicare, però stiamo parlando di vicende in cui la violenza c'è, e la metafora di un pugno rispetto a porgi l'altra guancia è una metafora forte. E quindi se io le chiedessi, Gino, secondo lei, vista questa sua opinione, metaforicamente, ma che cosa ci voleva trasmettere il Papa con questa metafora? Secondo me il Papa voleva dire che forse porgere l'altra guancia non è proprio il massimo. Bisogna trovare una via diversa da quella. Bravo, bravissimo. Ho capito. Poi per l'eco operanti volevo dire solo una cosa. Io dico che se lo Stato italiano ha pagato 12 o 20 milioni di euro per le due cooperanti, che secondo me se le sono andate a cercare perché sono volontarie, sono andate in un paese dove le donne sono considerate meno di niente e altre cose, io questa volta straccio la tessera elettorale. Perché lo Stato non doveva farlo, secondo me. Non doveva pagare, devono fare come fanno gli americani e gli inglesi. Una linea, quella si tiene per tutto e per tutti. Ecco, così. Questo per esempio, Gino, lo capisco di più, è anche la mia idea, ma molti non sono d'accordo, perché ieri pomeriggio sui social dice tutti buoni a fare gli statisti con le figlie degli altri, che è un argomento, perché la vita umana è la vita umana. Sono anch'io papà, umanamente sono vicino ovviamente alle famiglie, però dovevano impedire di farle partire, secondo me. Questo poi, sa, se uno va in Siria e vuole combattere con l'ISIS e viene ucciso da una bomba, sono affari suoi. Ok, grazie Gino. Sentiamo Daniele da Bologna. Daniele. Buongiorno, buonasera Oscar. Sì, io volevo intervenire sul discorso del Papa e anche sulle cooperanti. Sul primo, secondo me, ci sta il discorso che ha fatto il Papa. Ci sta, secondo me, il diritto di satira anche feroce, e che può convivere con il sentimento religioso più fervente e più radicale, nei limiti della legge. Cioè, se uno dice qualcosa di blasfemo e io mi offendo, ci sono tutte le leggi, tutti gli strumenti legali per colpirlo, con querele, con denunce. Sì. Credo che quel pugno in faccia, io credo che il Papa intendesse quello. Questo, sì, Daniele, forse intendeva quello, così. Però consentitemi di dire che secondo me ha usato un'immagine per me sbagliata. Ripeto, se un cittadino italiano viene offeso da un altro cittadino italiano e la risposta è un pugno, oppure se testualmente, come ha detto il Papa, qualcuno dice un cittadino italiano offende la mamma e l'altro offeso reagisce con un pugno, secondo il codice vigente c'è una sproporzione nella reazione e quindi i guai li passa chi dà il pugno. Allora, voi dite il Papa ha parlato per metafora, d'accordo, però ammettiamolo, in questi giorni è una metafora che ci dice parecchio di nuovo e di diverso dal Papa rispetto a quello che siamo abituati, abbiamo visto fino a questo momento. Non mi sorprende che molti di voi, forse probabilmente la maggioranza però, siano a favore rispetto alle parole del Papa. Adesso abbiamo i 60 secondi di strada e poi le altre opinioni vostre. Stiamo parlando delle parole pronunciate dal Papa: se qualcuno offende la mamma si deve aspettare un pugno, e del riscatto pagato o non pagato dal governo italiano per le due cooperanti Greta e Vanessa. Molti di voi hanno guardato i titoli dei siti regionali che dicono che il ministro ha smentito il pagamento del riscatto. Quello è il titolo. Se andate a vedere il testo, o avete ascoltato il testo trovate sui siti dei giornali le parole di Gentiloni intervenendo in aula, avrete la conferma che il ministro ha smentito le illazioni. Dopodiché ha detto con orgoglio: l'Italia non lascia la vita dei suoi cittadini all'estero senza recuperarli. Ecco, allora, ripeto, a me sembra che sia la classica conferma, sia pur espressa con un linguaggio da ragion di Stato, del fatto che noi paghiamo, e del resto abbiamo pagato innumerevoli volte. Altri di voi, e questo lo capisco, ci mandano sms in cui dicono: beh, però Giannino, non è che potete porre poi, cioè io, il problema per le due ragazze e le cooperante e invece non lo avete fatto per Quirico, cioè per un vostro collega giornalista. E se così fosse avreste perfettamente ragione, perché sennò sarebbe solo la vita di un giornalista quella che va salvata. No, il problema è che noi lo facciamo e paghiamo sempre. Però questo, io mi limito a dire che non capisco a questo punto perché impediamo ai familiari italiani di pagare quando c'è un sequestro, e questo consente il codice penale, il codice di procedura penale a chi fa le indagini in Italia. Trovo che sia una simmetria per me inaccettabile, visto che stiamo parlando sempre di vite umane e di sequestri. Però capisco che voi pensiate che, come sempre, i giornalisti pensino a se stessi e pensino che la vita umana degli altri vale di meno. Nel mio caso non è proprio affatto così. Qualche altro sms prima di continuare con le telefonate. Beatrice pensa invece che Papa Francesco abbia fatto una gaffe di portata, ahimè, incalcolabile, leggo il suo sms, e che Papa Benedetto, il suo predecessore, aveva un'altra statura, e lei lo rimpiange. Moltissimi messaggi, comunque, vi devo dire, sono a favore delle parole di Francesco. Sentiamo come la pensa Bruna da Milano. Prego, Bruna. Buonasera, dottore. No, dunque, Giannino. Prego. Io sono d'accordissimo quando sul fatto che il Papa abbia preso una di quelle cantonate da far paura, e non è la prima che prende, perciò caliamo un velo pietoso su quello che ha detto, perché la faccenda della mamma la posso interpretare anche chi dà un pugno a mia mamma, chi dà un pugno alla mia dottrina. chi offende la mia dottrina do un pugno in faccia, ma dai, ma non esistono queste cose. Per quanto concerne le due ragazze, io sono dell'avviso che se due ragazze di quell'età lì hanno i genitori che le permettono di partire per andare a fare le eroine e poi dopo noi dobbiamo pagare, questo trovo che sia assurdo, perché la storia che sono partite, come sono arrivate, allora hanno sbandierato, fatto, vediamoci televisione eccetera e poi noi paghiamo? Se decidete di partire sapete che vi dovete assumere i vostri rischi e i genitori devono essere ancora lì a non a dire sono felice che sono tornate, no, sono felice che sono tornate, abbiamo pagato noi. Va bene, grazie. Non ci sono soldi per i poveretti, non ci sono soldi per i pensionati, però per chi vuole andare in giro a farsi le vacanze... Loro andavano a fare le cooperanti, capisco quello che dici. In realtà io penso che non bisogna pagarle, lo so che è terribile quando si tratta però di vite sequestrate, sono scelte terrificanti, però l'abbiamo già fatto. In Italia, ripeto, le famiglie non possono pagare per sequestri avvenuti ai danni loro familiari, quindi c'è qualche cosa che non mi torna in questa decisione di Stato. Che ovviamente quando ci sono i sequestri internazionali per i governi ci si fa molto più belli pagando, ecco. Allora se questi sono i due pesi e le due misure, a me non convincono. Vi invito ancora a riflettere però: se il Gran Rabbino di Francia dice certo che esiste la blasfemia per noi ebrei, ma questo no, significa che io devo volgere lo sguardo altrove se sono credente, non significa che io posso imporre a qualcuno di non pronunciare, scrivere o raffigurare blasfemie. A me sembra un principio di superiore civiltà rispetto a quello dei capi religiosi. Io ho avuto l'impressione anche del Papa questa volta, che dicono no, chiunque offende la mia religione a quel punto bisogna limitare, o si autolimita oppure arrivano reazioni. Perché questo significa vivere in un mondo di guerra, perché ognuno a quel punto avrà un patrimonio intangibile di valori la cui offesa considererà giustificata a reazioni. E questo è il punto di fondo in cui stiamo vivendo da questi decenni, del fondamentalismo contrapposto e del fatto che siamo sempre più sospettosi a casa nostra. Forse il Gran Rabbino ci indica una strada, però parlo per me. Giorgio da Forlì, come la pensa Giorgio? Ma io sono totalmente in linea con l'ascoltatrice precedente e sono veramente disgustato dalle parole del Papa. Io non sono religioso, però ho il massimo rispetto della cultura cattolica di cui anch'io sono impregnato, ma trovo, a parte che questo Papa dovrebbe smetterla di dare delle interviste come se fosse al bar, cioè non è più un Papa, è un politico. Beh, ma questa è però è proprio la sua personale interpretazione di Papa Francesco. Lo fa deliberatamente, credo. Può ritornare dalla fine del mondo da dove è venuto, cioè non avevamo bisogno. Soprattutto in questi momenti in cui anch'io che non sono religioso abbiamo bisogno comunque di guide forti, non abbiamo bisogno di un parroco di campagna che le spara forte, che non si sa neanche che cosa faccia, cioè aspetti, guardi Giorgio, non per interromperla, poi le restituisco la parola. Un ascoltatore ci manda un sms in risposta subito a lei e dice però il Papa è in primis un uomo, è pure ruspante e quindi questo va apprezzato rispetto ai predecessori. Lei che dice invece? Ma io dico che da non religioso, ripeto, formazione cattolica, ma agnostico, che dovrebbe essere rappresentante di Dio in terra, per carità, no? È un uomo, una donna, ma cosa significa? Sono sciocchezze queste. Cioè lui dà veramente, ha uno stile papale che non è uno stile, dà le interviste come quando disse lì chi sono io per giudicare, ma se non giudichi te chi deve giudicare? Quindi a parte questa situazione qui, in questo momento qui a me ha veramente disturbato molto, perché è il segno di un cedimento ad un attacco, e in questo ovviamente ognuno ha i suoi giornalisti preferiti, sono molto in sintonia con Ferrara, perché io mi sento sotto attacco, sento che la nostra cultura è sotto attacco e c'è una mancanza di risposta da parte di chi la dovrebbe fare. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Giorgio. Sentiamo Sandro da Bologna. Prego Sandro. Pronto? Sandro, eccoci, siamo in linea. Oh, buonasera Giannino. Buonasera. Allora, io ho già mandato un messaggio SMS sul fatto delle due ragazze, nel risponderle del perché lo Stato italiano paga e altri stati come l'Inghilterra e l'America non pagano. Io glielo dico molto semplicemente, perché sì, in Italia non esiste la stessa opinione pubblica che esiste nell'Inghilterra o in America. Credo che lei abbia ragione, sì, credo che sia proprio questo il punto. In America, cioè io vorrei, cioè non vorrei, mi scusi, fosse successa una decapitazione, in Italia ci sarebbe stata la rivoluzione copernicana. Tra poi credo che sia questa sia discorso... una delle ragioni di fondo per cui la politica si diciamo regola diversamente. Veloce, siamo in fine trasmissione. Il discorso del Papa. Cioè, ma perché? Io, francamente, dopo quello che ha detto il Papa, dopo 20 anni io domenica tornerò a messa. Perché? Cioè, questo le è piaciuto? Sì, ma perché si comporta da perfetto gesuita? È come stare nel confessionale e uno va a dirgli, caro parroco, mi sono sentito offeso, quel tipo là mi ha dato un pugno perché io gli ho offeso la madre. E il parroco, in tutta la sua bontà, gli risponde, ma figliolo, in qualche modo se gli hai offeso la mamma te lo dovevi aspettare. Allora Sandro, lei dà ragione al fatto che i più di quelli, siete la maggioranza, Sandro, che si riconoscono le parole del Papa, si riconoscono proprio secondo me per quello che lei sta dicendo. Parla come un parroco, e il parroco, al di là delle regole canoniche generali, è chiaro che Papa Benedetto non avrebbe mai detto una cosa simile, si esprime andando al dunque di ciò che la gente comune alla fine, certo la gente comune direbbe in ogni caso che alzare le mani se offendono la mano è sbagliato, però probabilmente lo capisce di più perché molti lo farebbero. Quindi Sandro ci dà una chiave interpretativa poi del perché Papa Francesco decide di parlare in questo modo, perché non credo che sia istintiva la faccenda, è proprio è l'impostazione del suo pontificato. Sentiamo ancora brevemente Alessandra da Milano. Pronto? Eccoci Alessandra in diretta. Pronto? Dica Alessandra. Sì, no, io non sono d'accordo col Papa, assolutamente. Ci mancherebbe altro che per un insulto incominciamo tutti a prenderci a pugni. Bravo. Cioè, una bella differenza, sono d'accordo con il rabbino. Oh. C'è una bella differenza tra la... poi tra una vignetta e una battuta salace e un insulto diretto c'è una bella differenza. Guardi, cioè, per cui... ringrazio Alessandra perché siamo in minoranza io e lei, però la radio esiste per confrontarci, quindi sono molto felice del fatto che abbiate telefonato in numerosi, e mi raccomando, appuntamento domani dalle 10 alle 12 in diretta qui Radio 24 con i conti della Belva.